A me questo marito. In lei l'ira non fiammeggia più, ma brucia fondo, brucia la stanza ricca, i broccati, la veste galante, il prestigio dei suoi quadri e quello dei due cavalieri. Questo incendio fuma e sa di cattivo. Il mondo da conquistare non vale l'impulso di correre, di fermare Antonio, scuoterlo, farlo parlare, piangere. Come una donnetta si volge impetuosa e inciampa anche lei nella propria gonna. Non siamo a Ripa Grande, ci vuol più modi, più contegno, più pulizia anche, scoppia la prima occasione che Antonio, seduto a tavola, di faccia alla moglie, ma di malavoglia, tutto di traverso al suo solito, cincischia la carne sul piatto e non mangia, empiendosi la bocca e almanaccando con gli occhi socchiusi. Le sue mani appaiono sporche sul desco bianco, sporche, ma leggere. Artemisia lo sa e se ne strugge come di una cosa perduta che, quando carezzano, son piume. A Ripa Grande sporche non apparivano, anzi sembrava che quel grigiore fra le piegoline delle nocche fosse un'ingiuria sopportata, un travestimento. Lei seguita a parlare, ad accusare per non commuoversi, e alza la voce e se l'ascolta inorridendo fra quelle mura che la stimolano alla crudeltà e al livore. Non a casa il suo corpo giovane e perseguitato, non a casa il suo spirito che troppe volte non trova né condizione né tempo che lo esprima e non può accettarsi né farsi accettare senza violenza e un infelice turgore per cui non era nato. Ecco che le parole si affollano, rimbalzano, ecco che Artemisia si alza, spinta alla catastrofe come un cavallo pazzo, staritta, le mani calde afferrate all'orlo della tavola, chinate in avanti verso Antonio che non risponde. E lì quel viso divenutole tanto caro è presente, quella persona che non sa più dividere da sé, che mai consentirebbe a perdere suo marito, ma la implacabile voce procede: non può durare così, non può durare, mentre la lingua si secca e la saliva si fa amara. Stava Antonio con le mani sciolte sulle cosce e la testa inclinata sulla spalla, un'attitudine di stanchezza estrema. Gli occhi abbacinati di Artemisia lo minacciavano senza penetrarlo, ma la sua palpebra destra tremò e fu come scrollasse e scoprisse dalla cenere dell'ira una immagine, e questa immagine di uomo amato sollevava il braccio piegato al gomito all'altezza del viso, proprio come fa un bambino quando si ripara dalle busse non ricevute ma previste, previste per esperienza. Un tumulto di pena, di pentimento, di pietà, d'amore, un amore che si conosce irrimissibilmente perduto, le salì al petto, alla gola, e gliela chiudeva a ogni protesta o ogni rimedio. «Oh, non così, Antonio!» avrebbe voluto dire. Dai capelli, che erano ancora quelli biondi e fini di una giovinetta disgraziata, una ciocca le si scomponeva sugli occhi, che riconoscevano in quell'oro mite un appello alla limpidezza, alla dignità femminile, risuscitate, riconsacrate da Antonio a Ripa Grande. Ma non agisce su Antonio questo appello, la sua anima difficile si è rinchiusa in quel corpo sghembo che è così dolce avere amico. Cresce col nuovo dolore l'ira di prima. Goffo, pitocco, tu m'hai tradito! Ma la bocca non si è ancora fermata che una vertigine coglie la donna, con un palpito, una mancanza di fiato che già le garantiscono distinto l'indulgenza, una soluzione felice. Porta la mano alla fronte, così si sviene, cerca un appoggio, alza le palpebre illanguidite. Ebbene, non c'è più nessuno dinanzi a lei. Come un fuoco fatuo, Antonio è scomparso. Appena se la sua sedia è rimossa dal tavolo, suggerisce il balzo fino all'uscio, la fuga. Vuote le stanze, non un passo sulle scale, e dalla finestra non c'è traccia di Antonio sulla strada. Stralunata, sbigottita, come non avesse mai visto nessuno levarsi di spinta e uscir di casa ratto, Artemisia è sul punto di urlare, di scendere in pianelle e rincorrere e stanare dove che sia il fuggitivo. non si dice ritornerà. Ha il presentimento d'essere abbandonata e persa col suo capogiro, col suo dolce deliquio che non è stato soccorso da chi doveva. Piange ora dirottamente e cheta, la testa tra i piatti del desco, intrisa di lacrime la ciocca bionda. Patrizia Zappamulas ha letto Artemisia di Anna Banti, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.